perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. I rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni sopra il 2%, è la prima volta da più di un anno, si allarga a 170 punti la differenza con i Bund tedeschi. Ancora proteste e scontri negli Stati Uniti dopo la vittoria di Trump, il prossimo presidente al lavoro sulla squadra, si pensa al capo di JP Morgan per il tesoro. È morto a 82 anni il leggendario cantautore Leonard Cohen, l'ultimo album, You Want It Darker, era uscito poche settimane fa. Esecuzione nel Milanese. A Canegrato uccisi due fratelli albanesi di 24 e 27 anni, la macchina crivellata di colpi. Dopo la camera ardente, folla anche ai funerali di Umberto Veronesi, le lacrime del sindaco Sala, era il mio medico, mi ha insegnato a guarire. Venezia scende sotto i 55.000 residenti, domani la marcia organizzata dai cittadini chiedono tra l'altro accessi controllati alla città. Invia 10 grammi di rame in Iran per un restauro, un'imprenditrice bergamasca a processo, rischia fino a 2 anni di carcere. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque ci occupiamo di mercati e soprattutto del mercato dei titoli di Stato con i BTP a 10 anni che tornano sopra il 2%. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi, una giornata veramente intensa oggi per il mercato obbligazionario italiano. Non solo il rendimento del titolo di Stato a 10 anni è tornato sopra il 2%, un livello che non si vedeva da luglio 2015, e lo spread ha toccato e superato i 170 punti base, superando la soglia post-Brexit e portandosi al top d'agosto 2014. Ma questa mattina è stato evidentemente a rialzo anche il rendimento appunto che ha registrato l'altra gamma appunto di BTP che sono stati collocati dal Tesoro proprio questa mattina. Il titolo a 3 anni, 2.750 milioni di euro emessi dal Ministero dell'Economia, il rendimento si è riportato in positivo allo 0,30%. 2.270 milioni di euro di BTP a 7 anni con il rendimento che è schizzato all'1,37%, crescendo di oltre mezzo punto rispetto all'ultima emissione. Cosa vuol dire tutto questo? Che naturalmente ci sono timori di instabilità politica in Italia, con il terzo debito pubblico al mondo. L'Italia con il suo referendum naturalmente sta destando questa preoccupazione fra gli investitori, e i BTP per la verità vengono venduti già da diverse settimane, quindi un po' di nervosismo spinto anche chiaramente dall'elezione di Donald Trump alla presidenza americana, circostanza che potrebbe spingere un po' di più la Federal Reserve anche con l'aumento dei tassi di interesse. La prima operazione, come è noto, verrà presumibilmente fatta a dicembre. Nervosismo stamattina anche in borsa, con Milano che è positiva per lo 0,4%, sono negative invece le altre piazze europee, anche se la situazione stamattina era ripartita bene. I titoli che spingono di più, quelli che hanno rassegnato le trimestrali questa mattina, UbiBanca e Unipol. Vi segnalo Fiat che guadagna 4,5 punti dopo le dichiarazioni di Sergio Marchionne, che si dice impaziente di lavorare con Trump per rafforzare il settore manifatturiero americano. Simone, è tutto. E grazie a Deborah Rosciani. Sui mercati come sempre torneremo alle 13.30 con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore. Già si accennava appunto all'effetto delle elezioni americane. Bene, facciamo il punto di oggi. 4.000 persone in piazza Portland, nell'Oregon, dove la manifestazione si trasforma in una vera e propria rivolta. Auto distrutte, vetri in frantumi, incendi e 29 persone arrestate nella terza notte di proteste negli States contro l'elezione di Donald Trump. Ciò nonostante i toni concilianti usati dal tycoon nel suo primo discorso e nell'incontro di ieri alla Casa Bianca con Barack Obama. Primo passo verso il passaggio di consegne il prossimo 20 gennaio, un mese dopo il voto dei grandi elettori. La nostra priorità nei prossimi 2 mesi è facilitare la transizione. Dobbiamo lavorare insieme, spiega il presidente uscente. È stato un grande onore, le parole di Trump, che subito dopo però annuncia un'accelerazione su riforma delle tasse e sanità con l'abolizione dell'Obamacare. Intanto spuntano i primi nomi della squadra di governo, in primis il fedelissimo Chris Christie, poi Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, Jamie Dimon di JP Morgan, candidato al Tesoro, e Sarah Palin, ex governatore dell'Alaska. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E delle proteste di piazza negli Stati Uniti ci parla l'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. Sono in gran parte giovani, studenti e disoccupati, i veri protagonisti di questa altra America che non riconosce Donald Trump come suo presidente. Prima hanno scatenato il tantam sui social network in centinaia di migliaia, hanno poi invaso strade e piazze da Chicago a Los Angeles, da Portland a New York, praticamente ovunque. Cortei giganteschi, università occupate, profili personali su Twitter oscurati per protesta. È un movimento magmatico composto da varie anime politiche e culturali diverse tra loro, che non si vedeva così compatto fin dai tempi delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam. A fermare questo moto di piazza non serviranno probabilmente gli arresti, anche perché quello che sfila in queste ore non sembra un movimento organizzato vero e proprio, bensì un moto spontaneo di indignazione contro Donald Trump, ma anche contro quel pezzo del paese che lo ha votato. E qui sta il punto. Al di là delle dichiarazioni di facciata di Trump, Obama e della Clinton, l'America di oggi è visibilmente spaccata in due e le tensioni non solo politiche proseguiranno ancora per molti anni. Il Ku Klux Klan organizzerà il 3 dicembre in North Carolina una parata per la vittoria di Donald Trump. Lo ha annunciato il gruppo razzista suprematista sul suo sito internet, senza precisare la città nella quale si svolgerà la manifestazione. La corsa di Trump ha unito la mia gente, è la didascalia sopra un ritratto del tycoon, dove la parola race in inglese vuol dire sia corsa che razza, così ha scritto il leader del Ku Klux Klan. E siamo alla morte di Leonard Cohen. Con profondo dolore comunichiamo che il leggendario poeta, cantautore e artista Leonard Cohen è morto. Abbiamo perso uno dei più prolifici visionari. Una commemorazione si terrà a Los Angeles fra qualche giorno. La famiglia richiede la privacy nel suo dolore. Così la Sony Music Canada ha diffuso la notizia della scomparsa di Leonard Cohen sulla pagina Facebook del grande musicista. Nessun dettaglio né sul luogo né sulle cause della morte. Leonard Norman Cohen era nato il 21 settembre del 1934 a West Mount in Quebec, da una famiglia di origini ebraiche, e aveva imparato sin da ragazzino a suonare la chitarra, mentre leggere García Lorca lo aveva avvicinato alla poesia. È stato uno dei cantautori più influenti degli anni 60 e 70, a fianco di altri giganti come Bob Dylan e ad un'altra canadese, Joni Mitchell. Aveva 33 anni quando uscì il suo primo disco nel 67, una carriera fenomenale la sua, durata quasi mezzo secolo, fino al suo ultimo lavoro uscito soltanto a fine ottobre di quest'anno, una sorta di testamento spirituale intitolato You Want It Darker. You want it darker. Le sue canzoni, amate anche da tanti suoi colleghi, sono state oggetto di oltre 2000 cover, tra le più celebri Alleluia, celebrata anche da Jeff Buckley. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ricordo il critico musicale Enzo Gentile, proprio al microfono della nostra Adriana Fracchia. È uno di quegli artisti che mi stava particolarmente a cuore. E proprio nei giorni scorsi, quando è uscito il suo album, il nuovo, ultimo, bellissimo, ho proprio pensato che, pur felici e soddisfatti per il premio Nobel per la letteratura Bob Dylan, forse ci sarebbe stato il motivo, lo spazio e il tempo per dedicarlo invece a Leonard Cohen, che aveva una produzione magari più ristretta rispetto a Bob Dylan, però allargata anche a una parola svincolata dalla musica e quindi su poesia, romanzi, racconti brevi, e anche oltretutto era un disegnatore, un pittore straordinario. Quindi davvero la parola gli era forse insufficiente e aveva anche attraverso i colori, le matite, un modo per esprimersi, e forse il Nobel lo avrebbe meritato già da tempo. Peccato che forse era meno esposto e meno di moda di altri, più silenzioso appunto anche in funzione di quella sua fede tra religione e filosofia, che lo ha sempre mantenuto molto discreto e sollevato dalle cose terrene. Siamo alla cronaca italiana. Il direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale di Baggiovara di Modena, Stefano Tondi, ed è notizia di poco fa, è stato aggredito nella serata di ieri da un uomo che gli ha spruzzato acido soprattutto sul viso ed è ora ricoverato in prognosi riservata nello stesso policlinico di Modena. L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi dell'abitazione del medico che stava rientrando in compagnia del figlio, 19 anni, a sua volta raggiunto dall'acido e che ha riportato solamente lievi lesioni. Duplice omicidio, probabilmente un regolamento di conti, comunque un agguato nel milanese. È erano le 23 di ieri, quando alcuni residenti di via Ancona a Canegrate hanno sentito le ruote di una macchina stridere sull'asfalto e subito dopo un botto. In un primo momento si è pensato ad un incidente stradale, ma così non era. Gli inquirenti hanno trovato una vettura crivellata e a bordo due uomini senza vita. Le vittime sono due fratelli albanesi di 27 e 24 anni residenti a Parabiago, sempre nel Milanese, che inutilmente avrebbero cercato di sfuggire all'agguato. Un regolamento di conti, forse legato al mondo della droga. Questa l'ipotesi più probabile, ma le indagini vanno avanti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'ala di un palazzo di 5 piani nel centro di Roma, nei pressi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, è stata evacuata nella notte dai vigili del fuoco dopo un intervento di verifica su alcune crepe nella tromba di una scala che potrebbero essere riconducibili al terremoto. Enza Loddo ha raggiunto l'avvocato Fabio Amato, che è un inquilino della palazzina. Tutti i singoli condomini, compreso il sottoscritto, hanno ricevuto un'ordinanza sindacale da parte della sindaca Virginia Raggi, che ha ordinato la demolizione del palazzo per la messa in sicurezza nel lasso temporale di 15 giorni dalla notifica. Il condominio si è prontamente riunito, ha preparato attraverso i tecnici di fiducia un progetto per la demolizione, la messa in sicurezza e anche il coordinamento dei lavori per la realizzazione delle opere. E questo tipo di progettazione è stata depositata sia presso gli uffici comunali competenti sia presso la procura, perché lì, ricordiamoci, c'è un sequestro di natura probatoria da parte dell'autorità giudiziaria. Ad oggi, io vorrei non sbagliare perché non ho avuto contezza, non c'è ancora arrivato l'autorizzazione da parte della procura per poter accedere, perché sotto sequestro, se noi accediamo, ovviamente si perfeziona un reato di violazione di sigilli di area sequestrata. Stiamo attendendo l'ok per dare l'avvio ai lavori ineluttabili, che purtroppo sono per adesso a carico dei condomini, con grande aggravio di costi, di fatica, di spese, visto che molte famiglie stanno fuori casa, vivono in alberghi, ovviamente avrebbero bisogno di aiuto. E parliamo proprio di terremoto adesso. Ricostruire beni d'arte spazzati via dal terremoto e tendere la mano ai cittadini angosciati. A lanciare l'appello è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo il sisma che ha sconvolto Lazio, Marche e Umbria, dice Mattarella, la ricostruzione dei beni culturali e artistici è necessaria, non meno delle case e delle fabbriche, delle scuole e delle piazze, perché sono parte di un'identità personale e collettiva e sono anche moltiplicatori di forza sociale. Oggi, intanto, il nuovo decreto sulle misure per le zone terremotate del centro Italia, messo a punto dal Governo, è arrivato al Quirinale per la firma. Sempre oggi il Ministero dell'Istruzione e l'Associazione Italiana Editori hanno siglato un protocollo per garantire libri gratis per 3 anni agli studenti delle scuole di Amatrice e degli altri comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto. Sul fronte finanziario, infine, Allianz Italia ha messo in campo un team dedicato per gestire velocemente le richieste di liquidazione danni degli assicurati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La politica all'indomani del respingimento del ricorso sul referendum. La motivazione del giudice appare faticosa, vedremo se ricorrere in Cassazione. Altri capitoli della battaglia legale sul referendum potrebbero dunque aprirsi. L'ex presidente della Consulta, Valerio Nida, contesta infatti la bocciatura del suo ricorso sul quesito referendario. La giudice civile Dorigo ha deciso di non investire la Corte Costituzionale della decisione. Il quesito è legittimo, nessun obbligo di spacchettare, nessuna lesione del diritto di voto, ha sentenziato il magistrato entrando nel merito della questione, secondo Nida, arrogandosi i poteri della Corte. Intanto, in vista del 4 dicembre, continua la mobilitazione dei due fronti. Con il sì il paese sarebbe più semplice e più forte, con il no rimarrebbe impantanato, dice Renzi. Salvini scalda i motori in vista della manifestazione di piazza domani a Firenze, aperta, dice, a tutti coloro che sono contrari alla riforma costituzionale, mentre i 5 Stelle continuano il loro tour per l'Italia, una maratona di oltre 6.000 chilometri a sostegno del no. Oggi sono in Piemonte e in Lombardia. E intanto è polemica per la decisione dell'Associazione Nazionale Partigiani di espellere la senatrice Dem Puppato perché accusata di fare campagna per il sì. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. a Milano per i funerali di Veronesi. Non riesce a trattenere le lacrime il sindaco Beppe Sala, il primo a prendere la parola al funerale laico di Palazzo Marino, ultimo saluto di Milano al grande oncologo scomparso martedì all'età di 90 anni. Umberto Veronesi è stato un milanese vero, protagonista della storia di questa città, dice il sindaco, che ricorda l'infanzia del professore, vissuta nelle campagne dell'Interland, sognando la metropoli. Altrettanto commosso l'omaggio del figlio Paolo, che ne ha raccolto l'eredità alla guida del reparto senologia dello IEO, mentre è stato un altro figlio, Alberto, musicista e direttore d'orchestra, ad aprire la cerimonia eseguendo al pianoforte un brano di Beethoven e uno della Turandot. Tanti i milanesi che hanno sfidato la pioggia, troppi per entrare tutti nella sala del comune. In centinaia si sono assiepati davanti al maxischermo allestito in piazza alla Scala. A Emma Bonino il ricordo del veronesi politico, sempre in prima linea quando si trattava di battaglie civili. C'era sempre, le parole della leader radicale, anche quando a combattere eravamo in pochissimi. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Partiremo con Venezia, dove i cittadini si preparano a manifestare contro lo spopolamento della città e l'eccesso di turisti, e poi andremo a Bergamo, dove c'è un'imprenditrice a processo. Perché? Perché ha inviato 10 foglietti di una lega di rame per 10 euro complessivi in Iran, e adesso rischia fino a 2 anni di carcere. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del rialzo dei rendimenti di titoli di Stato sopra il 2%, abbiamo parlato delle proteste e degli scontri negli Stati Uniti e della squadra che Trump sta componendo, abbiamo parlato della morte di Leonard Cohen e di una vicenda di cronaca dal milanese a Canegrate, c'è stata una vera e propria esecuzione, sono stati uccisi 2 fratelli albanesi. Prima di iniziare il nostro giro per l'Italia, una piccola precisazione su un errore che abbiamo fatto, evidentemente, che un ascoltatore molto attento ci fa notare. Abbiamo parlato della palazzina che è stata evacuata a Roma per il terremoto, ma per le crepe che sono apparse nel terremoto, però vi abbiamo fatto sentire in realtà un'intervista di un avvocato che è un inquilino della palazzina di Ponte Milvio, che era crollata nelle settimane scorse. È un errore nostro, del quale mi prendo la responsabilità e mi scuso. Andiamo, iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo facciamo con Marco Caberlotto, che è il fondatore dell'associazione Generazione 90. Cos'è? È un'associazione che insieme ad altre promuove una manifestazione a Venezia. Cosa è successo? La notizia delle scorse ore è che Venezia è scesa sotto i 55.000 residenti. Vi abbiamo anche raccontato dei problemi che ci sono stati nel fine settimana lungo, in quello del ponte per Ogni Santi e per la festa dei morti, quale la città è stata letteralmente invasa. Ebbene, qua c'è qualche problema e domani i residenti di Venezia manifesteranno con le valigie in mano, ho capito bene, Carbelotto? Sì, buongiorno. Sì, con le valigie in mano, sì. Questa è una delle varie manifestazioni che abbiamo organizzato, non soltanto noi come Generazione 90, in questo caso capofila è un'associazione che è venezia.com, ma ce ne sono state moltissime di manifestazioni di residenti, di veneziani stanchi della situazione, diciamo, ma che hanno voglia di resistere, insomma. E che cosa proponete voi? Bisogna fare Venezia numero chiuso? Perché è una cosa della quale si è parlato e tutto sommato ci sono luoghi particolarmente turistici nel pianeta che lo fanno. Esattamente, ci sono diverse proposte sul tavolo che l'amministrazione comunale sta incominciando a valutare. Le associazioni chiaramente hanno tutte delle posizioni di più o di meno dirette a questo tipo di intervento. Sicuramente è il momento di agire, è il momento di prendere una decisione che sicuramente non accontenterà tutti, è una decisione anche molto forte che va contro alcuni interessi economici, però è giunto il momento di prenderla, altrimenti la città sarà totalmente schiacciata. Totalmente schiacciata dal turismo, cioè lei dice va bene, i turisti sono la nostra grande risorsa, per carità, però questa cosa va controllata, perché immagino che insomma per un residente di Venezia vedere quello che è successo nel fine settimana, no, in quel ponte là deve essere stato piuttosto pesante, ed è una cosa abbastanza frequente. Sì, è una cosa quasi quotidiana, soprattutto nei weekend, in particolar modo con i ponti, in particolar modo d'estate. Ma quello che vogliamo dire con molta forza e con molta convinzione è che non siamo contro i turisti, noi siamo i primi a volere che le persone possano venire liberamente nella nostra città, la possano conoscere, la possano visitare. La questione è che troppa parte di turisti sono turisti, diciamo, escursionisti, turisti di giornata o peggio ancora di qualche ora, vengono qui per farsi selfie in Piazza San Marco o sul Ponte di Rialto e dopo un paio di ore se ne arrivano via o con il treno o con le barche quando stanno d'estate lungo il litorale. Questo è quello che noi combattiamo. Cioè, lei dice si potrebbero far pagare questi per disincentivare questo tipo di turismo? Questa è un tipo di proposta che è sul tavolo. Io penso che il turista che pernotta, chiaramente più tempo sta, meglio può conoscere la città e maggiore ritorno economico, senza dubbio, anche per la città stessa. Ma chi sarebbe meglio, diciamo, colpire non personalmente ma proprio come categoria, perché in questo mare di fiumi di persone che si riversano sulla città, soprattutto in certe giornate, alla fine i veneziani si sentono un po' come delle comparse, ecco. Qualcuno ci scrive: ha ragione, io c'ero in quel fine settimana, numero chiuso subito. Ma poi in realtà qualcun altro vi dice: volete un turismo classista? Ci scrive un ascoltatore. No, nessuno chiede alle persone il modello 730 o qualcosa al momento dell'arrivo, ma già di fatto in certe giornate il Ponte della Libertà, che diciamo che è quello che collega Venezia alla terraferma, viene chiuso anche per motivi di sicurezza nei momenti in cui l'afflusso è talmente elevato che non si possono sopportare nuovi accessi. Però il fatto è che quei numeri sono veramente molto molto molto impegnativi, diventa complicato anche semplicemente girare per certe zone della città. Allora io la ringrazio, grazie Marco. Grazie a voi. Grazie Marco Caberlotto, fondatore dell'associazione Generazione 90. Ci sono molte domande agli ascoltatori su questo, per esempio qualcuno ci scrive come si coniuga la cosa con la libertà di movimento garantita dalla Costituzione, qualcuno dice ma va là, vogliono selezionare i turisti, come sentite il dibattito è aperto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, lo ricorderete, con l'assessore al turismo del Comune di Venezia, perché stanno esaminando una serie di ipotesi da questo punto di vista. Bisogna dire che Venezia è oggettivamente un luogo molto particolare, anche per come è strutturata. Sarà tema di dibattito anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Noi proseguiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo in Lombardia adesso. C'è un'azienda di Abbiate Grasso, siamo nel Milanese, che si chiama CM Masserini ed è un'azienda che produce sottilissime lamine in oro o in altri metalli pregiati destinate ad artigiani e restauratori. È in linea con noi Anna Maria Masserini, che è la legale rappresentante, amministratrice della società. Buongiorno Masserini. Buongiorno. Eccoci qua. Che cosa succede? Succede che avete inviato 10 fogli sottilissimi di una lega di rame e zinco in Iran, costo? Costo $10. Quindi nemmeno 10 euro. $10 in tutto. Peso di questi 10 sottilissimi fogli di rame e zinco, 1 grammo. Peso del pacchetto comprensivo dell'imballo, 100 grammi. Allora, complessivamente 100 grammi, in realtà poi per 1 grammo di contenuto, perché chiaramente è un contenuto pregiato che serve ad un restauratore, una cosa di questo genere. Qual è il problema? È che quando sono state varate le sanzioni nei confronti dell'Iran era proibito l'invio esattamente del rame, cioè il rame era compreso nell'embargo. E lei di fatto per questo grammo di rame si è trovata sotto processo. Sto vivendo una situazione incredibile. In 50 anni che noi produciamo questi prodotti pregiati, artistici, destinati esclusivamente ad un uso civile artistico, non è mai successa una cosa del genere. Noi esportiamo in tutto il mondo, il 60% della nostra produzione va all'estero perché serve per la doratura foglia di chiese, moschee, residenze, cornici, mobili. E non mi sono mai trovata in una situazione simile. Lei rischia fino a 2 anni di carcere, ho capito bene? Il PM, io è un anno che sto vivendo questa situazione, che sto portando avanti, cioè che vivo sulla mia pelle come imprenditrice, come persona questa situazione, Il PM ha chiesto, siamo già alla seconda udienza, a gennaio ci sarà la terza udienza per questi 10 foglietti di rame zinco, e il PM ha chiesto per me 2 anni di reclusione. Due anni di reclusione ha chiesto, anni ha di chiesto reclusione ha chiesto, per avere perché immagino, mi scusi, io immagino la ratio, no? Almeno nella mia idea, la ratio di un embargo di questo tipo è: non gli mandate quintalate di rame perché magari, non lo so, gli servono o per questioni militari oppure per rifare i fili elettrici e l'elettricità, cioè per mettere in difficoltà il governo iraniano. Però appunto qua parliamo di piccolezze. Poi non parliamo di rame, parliamo di lega di rame e zinco, quindi di una cosa totalmente... Mi scusi, lo zinco era embargato pure quello, no? Per no, sapere. Ma questo prodotto, si chiama Tumbacco, è una lega particolare che ha esclusivamente una, diciamo, un'applicazione nel campo artistico. Assolutamente non ha questo materiale delle caratteristiche di trazione e torsione tali da fare rientrare questo materiale nella tipologia di materiali dual use, sì, che possono essere utilizzati sia per un discorso civile che per un discorso militare. Mi scusi Masserini, da quel che ho capito bene il grande problema, al di là, insomma, come dire, della scelta del PM di chiedere 2 anni per lei, che insomma a questo punto ci suona un po' discutibile, sentita la sua storia, però insomma questo, la giustizia farà il suo corso, e qua mi sembra che il problema sia anche questo ginepraio di norme che contornano no? L'embargo nei confronti dell'Iran, che crea problemi di questo tipo. Crea problemi, allora, anzitutto una successione di normative, perché io sono stata praticamente indagata e poi sono andata a giudizio per un decreto legge, un decreto legislativo. Quindi c'è anche qualcuno che l'ha rinviata a giudizio, no? Esatto, sì, esatto, perché praticamente l'Agenzia delle Dogane ha interessato la Procura della Repubblica di Bergamo di questo problema. Poi qualcuno ha indagato e ha ritenuto che io dovessi andare a giudizio per questa esportazione. Tra l'altro, riferendosi a un decreto legge dove non viene assolutamente specificata la mia condotta illecita, perché fa riferimento ad una normativa, ad un regolamento CE che è variato, è stato sostituito più volte nel corso di questi anni. Tant'è vero che con l'ultima normativa CE dell'ottobre 2015 si sono aperte le maglie per l'esportazione verso l'Iran e, diciamo, si è molto liberalizzato questa esportazione. Certo, è vero che molti di questi regolamenti sono stati abrogati da quelli successivi, quindi allora, c'è un ginepraio pazzesco. Allora io la ringrazio, grazie ad Anna Maria Masserini per essere stata con noi, averci aiutato a raccontare questa storia, a Stefano da Padova che ci chiede via SMS chi paga questo processo assurdo. Beh, la risposta se la dà da solo, lo paghiamo noi. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e andremo innanzitutto in Sicilia per parlare della vicenda di una cinquantina di migranti che sono stati espulsi e, come è abbastanza tipico, sono stati espulsi e poi lasciati andare in giro. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione i nostri titoli sono stati quelli sui rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni, che sono risaliti sopra il 2% ed è la prima volta da oltre un anno. Si allarga a 170 punti la differenza con i Bund tedeschi. Ci sono state ancora proteste e scontri negli Stati Uniti dopo la vittoria di Trump. Il prossimo presidente è al lavoro sulla squadra. Si pensa al capo di JP Morgan, Diamond, per il tesoro. È morto 82 anni il leggendario cantautore Leonard Cohen. L'ultimo album You Want It Darker era uscito poche settimane fa. Notizia di pochi istanti fa: richiesta di condanna per 18 imputati e fra loro il senatore Denis Verdini e l'uomo d'affari Flavio Carboni, e poi una richiesta di assoluzione, quanto chiesto dalla Procura di Roma al processo sulla cosiddetta P3, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Oh, mi piace quando aggiungete qualcosa alla trasmissione. Abbiamo parlato della vicenda, no? Di quel grammo di tombacco esportato verso l'Iran e di questo processo che ne è nato. Allora, mi sembra, insomma, dubito che la signora avesse cattive intenzioni, l'imprenditrice, però un ascoltatore ci scrive: occhio che il tombacco è utilizzato nella produzione di ogive per armi corte. Lo apprendiamo da lei, sono andato a dare un'occhiata su internet, in effetti è vero. Però detto ciò, insomma, non mi sembra che la signora potesse essere sospettata di fornire tombacco per le ogive. Ci spostiamo a Palermo nel nostro giro per l'Italia. Cosa succede? Come spesso accade in queste settimane, arriva una nave, magari della Marina Militare, con 800, in questo caso 800 migranti a bordo. Alcuni sono, per così dire, elegibili per fare la richiesta di asilo, altri sono prevalentemente magrebini che non lo sono. Vengono espulsi e, come spesso accade in questi casi, è un'espulsione sostanzialmente fittizia, nel senso che gli viene consegnato un decreto di espulsione e poi sono liberi di fatto di circolare nel nostro paese. A seguire questo sbarco c'era, tra gli altri, Judith Glaze, che è presidente di Borderline Sicilia, è un'associazione che si occupa proprio di migranti. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, eccoci qua. Innanzitutto abbiamo, e di questa vicenda ne abbiamo parlato molto, di questa assurdità giuridica per molti aspetti di quello che succede, cioè un'espulsione che non è un'espulsione. Dall'altra parte c'è quello che succede dopo a queste persone, perché di fatto diventano degli invisibili e diventano preda dello sfruttamento e anche della criminalità. Sì, infatti questo è il grande problema, perché tutti naturalmente hanno il diritto di fare la richiesta d'asilo, anche i magrebini se vogliono, questo è il primo punto. Poi cosa è successo adesso a Palermo? Purtroppo succede in tutti i porti, vengono veramente trattenuti anche fino a 30 ore nel porto, sotto la pioggia, nella questura, e poi ricevono questo foglio di via di lasciare il paese entro 7 giorni. Qua a Palermo abbiamo trovato le persone tutte alla stazione che naturalmente con senza niente in mano dovevano partire per qualsiasi posto perché non sapevano dove andare. Questa è la situazione. Sì, cioè vengono lasciati là e gli si dice: boh, prendete un treno. Che cosa gli viene detto? Mi scusi, perché per me questa cosa è incomprensibile, in tutta sincerità. È veramente incomprensibile, perché alla fine chi ha soldi si può comprare il biglietto, chi non ha soldi non può nemmeno partire. Allora viene detto dalla polizia, che è naturalmente presente, e sì, possiamo fare niente. È un problema, perché da quando ci abbiamo questo sistema hotspot che divide tra migranti cosiddetti economici e quelli che possono fare la richiesta d'asilo, abbiamo sempre più casi di queste persone che vengono messe proprio nella totale invisibilità. Vengono lasciati lì alla stazione e tutti sperano che se ne vadano. Ah, tutti sperano che se ne vada, così genericamente, cioè anche la polizia sta là e, come dire, e spera che se ne vadano. Più o meno così, sì. Dovunque, cioè senza, così, senza... Sì, senza proprio una minima domanda, le persone che piangono, le donne incinte, veramente niente, nessuno se ne occupa, a parte delle associazioni che sono lì presenti a recuperare tra cui voi naturalmente, insomma, anche date noi, certo, una coperta, un po' d'acqua, qualcosa da mangiare, insomma, come è normale, visto che, insomma, poi io so che abbiamo degli ascoltatori molto duri su questo tema dell'immigrazione, però sono esseri umani, stanno là, stanno al freddo, ci sono le donne incinte, comunque una mano, no, gliela si dà. Io la ringrazio, grazie a Judith Gleitz per essere stata con noi, presidente di Borderline Sicilia, per averci aiutato a raccontare tutto questo. Noi restiamo in Sicilia e restiamo sempre sul mare, perché abbiamo Giovanni Tumbiolo, che è presidente del distretto produttivo della pesca di Mazara del Vallo. Tumbiolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, cosa succede? Che ieri ve lo abbiamo raccontato, ci sono stati due pescherecci che sono stati fermati in Egitto, trattenuti per 24 ore, e poi è arrivata la denuncia del sindaco di Mazara del Vallo. Dice: guardate che questa gente arriva in acque internazionali e a ridosso delle acque territoriali degli altri paesi. La Libia l'abbiamo visto molte volte, in Egitto, semplicemente perché il nostro mare non è più pescoso. E su questo ci sono anche delle colpe dell'Unione Europea. Ci spiega quali sono? La flotta di Mazara del Vallo storicamente, già dall'Ottocento, pratica quelle acque, le acque del Nord Africa, le acque vicine alla costa tunisina, alla costa libica, alla costa egiziana. Sì. Quindi vero è che i mari in generale si stanno depauperando, ma sono i mari di tutto il pianeta, non solo quelli siciliani o italiani. purtroppo è così. Sì. E quindi dovremmo tutti insieme fare uno sforzo, sì, comune per proteggere il mare. Chiaro, ma, benissimo. Ma domanda precisa, risposta precisa, Tumbiolo, anche perché abbiamo poco tempo, purtroppo, mi scusi. Sì, i nostri pescatori sono stati vittime di un sequestro in acque internazionali. In acque internazionali per noi del tutto incomprensibile, quindi c'è la necessità di instaurare con questi paesi. Sì, però non ho capito, mi scusi, la questione era precisa, cioè c'è un problema come dire, di pescosità in particolare nei mari a ridosso della nostra costa oppure no? C'è un problema di pescosità dappertutto, nel Mediterraneo e nel mondo. Quindi come dire, quello che l'allarme lanciato ieri dal sindaco di Mazara del Vallo non ha molto senso da questo punto di vista, cioè non si spingono fino a quasi alle acque territoriali egiziane perché come dire, c'è un problema sui regolamenti di pesca dell'Unione Europea. No, i nostri pescatori stavano pescando lì una specie che si trova solo in quelle acque, cioè il gambero rosso, quindi, okay. E si pesca in quelle acque internazionali. Per fortuna questa vicenda si è risolta perché ha funzionato la filiera, sì, istituzionale, quindi le autorità politiche, diplomatiche e militari hanno consentito la risoluzione con successo immediato di questa vicenda, che però rimane una triste vicenda che è legata ai rapporti nostri con i paesi riviali. Con i paesi, che è chiaro questo. La ringrazio. Grazie a Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto produttivo della pesca. Come avete sentito, dice l'allarme del sindaco di Mazara era infondato. Traffico, Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.